Alla sua prima uscita pubblica, il vice ministro del lavoro Michel Martone, a un convegno sull'apprendistato, ha detto che se a 28 anni non sei ancora laureato, beh, sei uno sfigato. Ora sì che abbiamo capito perché Martone era la sua prima uscita pubblica e probabilmente anche all'ultima.